per i terremotati dell'Emilia. Le cose di casa sono trappole di dolore. Se ci resta impigliata una mano subito, si gonfia una porzione di cuore, una finestra si spalanca su una mattina afosa che galleggia gialla di ricordi. La mano sudata sostiene una presina fatta all'uncinetto mentre si sfilano contorcendosi come un lombrico al sole i suoi colori accozzati malamente. Avanzi di filo, certo, ma anche segnali di serate malinconiche in cui muovere due dita accavallate come per scrivere fu per una donna vecchia l'unico modo intenerito di sfidare il ritmo mortale del mondo. E gli asciughini si comportano con le loro macchie indelebili da sipari bucati aperti sul tetro teatro dei sensi di colpa. Non buttare, accarezza, piegando e riponendo con cura queste cose di casa che sopravvivono alle donne morte, loro non sapendo ancora se se ne possono andare e eventualmente dove. Sono la polvere composta dalla cenere delle tue sigarette mentre fai le faccende. Sono diventate la polvere che si annida negli angoli dove l'aspirapolvere non arriva e coabitano volentieri pur di abitare ancora con esoscheletri croccanti e trasparenti di insetti. Sono le nostre parche domestiche, le nostre aracni arcane, il nostro vero sistema d'allarme, cacciarle non vale, proteggono. Proteggile, dureranno comunque ancora poco. Lavale, ogni tanto profumale di spigo, non fanno rumore, ti aiutano a dormire, ti fanno compagnia di giorno e di notte, quando la casa vuota sarebbe solo silenzio. Queste tue eredità sovrabbondanti e persecutorie, salvale dalle rovine. Occupano poco spazio quegli spazi inermi di vite che sorridono da foto in bianco e nero ingiallite. Ma le foto rovesciale in un cassetto e ripensa le giovani colorate, operose e vive.